Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Utile, inutile, giusto, sbagliato, fallimento, successo. La linea che separa gli opposti è marcata e quasi sempre facile da individuare. Ma ogni tanto, nel progresso dell'uomo, la demarcazione si scolora, scompare e trasforma un'invenzione inutile in un risultato epocale, semplicemente cambiandole funzione. È la storia del Viagra, nato come cardiotonico, dei Kleenex, filtri per maschere antigas in dotazione all'esercito nella prima guerra mondiale, del Pluriball, concepito come carta da parati per abitazioni, e di un sintetizzatore musicale, la Roland TB-303 Bassline. Lanciata nel 1981 come un generatore di linee di basso per aiutare i chitarristi durante lo studio, la TB-303 non serve assolutamente a niente. I suoi parametri sono troppo difficili da impostare. I suoni che produce sono caotici, seghettati, e i preset memorizzati vanno in tilt senza preavviso, generando movimenti casuali e imprevedibili. Una truffa. Una truffa. Un buco nell'acqua. Un disonore per la più grande azienda giapponese di strumenti musicali elettronici, che porta il suo progettista al suicidio. Harakiri. Sipario. E invece no, perché nel 1986 un disc jockey di Chicago, DJ Pierre, ha un'intuizione. Se la TB-303 non può seguire la musica, sarà la musica a seguire la TB-303. Oscillazioni random. That shit's wild. Suono acido. Ritmica dance e una spruzzata di ecstasy. È nato un nuovo genere, la acid house. Picture this, a recording studio somewhere far, far away. Ooh-wee, you bugger. Say kids, what time is it? It's time for house. Ooh. Paradise Garage di Chicago, al Project di Londra, dall'amnesia di Ibiza ai rave sperduti nelle campagne. Ripercorriamo il ricordo lisergico di una nuova Summer of Love. T-shirt fluorescente, sneakers ai piedi, smile dappertutto. Calatevi una pasta. Inizia Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. ...1966... Central City. Riuscirà Flash, l'eroe dotato della velocità di un fulmine, a smascherare le tre facce del perfido Mr. Big? E Plastic Man, il mutante malleabile, sarà in grado di liberarsi da quella prigione di ghiaccio per tornare a Gotham City e completare il suo tirocinio con Batman? E infine, Aquaman, Wonder Woman e Lanterna Verde accetteranno di diventare membri della Justice League? Per rispondere a queste domande è necessario immergersi nell'universo DC Comics, tornare alla Golden Age del fumetto, la più grande macchina di propaganda Yankee nel mondo della Guerra Fredda. Oppure aspettare il 1988 e appoggiare la puntina sul nuovo singolo dei Cold Cut. I supereroi sono tutti dentro. And the Doctor is in the house. Chicago. Il popolo della house è più di una definizione. È un esercito transoceanico che si raduna di notte, che marcia a tempo di cassa e basso. Un equipaggio composto da uomini, donne, gay, professionisti, tossici, star. Un concetto globale che livella i popoli, che annulla le differenze di ceto, razza, cultura, religione ed accoglie militanti in funzione di un unico, utopico progetto. Creare un nuovo stato fondato sulla nuova musica elettronica. Una nuova bandiera, una nuova collettività, una nuova nazione. Una nazione house. House. Percorrendo le origini della Acid House, solo su Radio 105. istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Oggi stiamo ripercorrendo le origini della Acid House, solo su Radio 105. Los Santos. CJ è tornato a casa. Due balordi della gang dei Ballas hanno ucciso sua madre. Dopo l'assassinio di suo fratello Brian, CJ aveva giurato a se stesso che avrebbe mollato per sempre quella merda. La Groove Street Family, le rapine, le strade di San Andreas. Ma ora è di nuovo lì, nel quartiere, e deve sporcarsi le mani perché gli agenti corrotti della Crash lo tengono per le palle. Molla Big Smoke, che sta restaurando i vecchi graffiti. Fa a pugni con uno sbirro. Ferma un'auto. Apre la portiera. Trascina giù un conducente e parte a tuono sulla highway. Mentre guida, tiene premuto il tasto X sull'acceleratore e con il tasto Up cerca una stazione radio. Scanala fino a Fix FM. Un po' di fottuta house e la pompa a tuono. Questo è acido. So many questions have been made about this new dance craze called acid. What people really want to know is how the story all goes about acid. Have to move your feet when you there'll be no going back. Everybody out there, this Jack the House. Maggio 2018, New York City. Al Brooklyn Mirage è tutto sold out per la performance degli Swedish House Mafia. Axwell prende il microfono e dice una roba tipo: "Hey gente, pare che dovremo cancellare le date del prossimo anno, perché mi sembrate un po' freddini da queste parti." Il boato del pubblico lo sommerge. Ingrosso sposta il dito da cue a play e parte la prima traccia. Il disco di apertura non è roba loro, è un omaggio a un DJ italiano, uno che li ha formati, uno al quale sono riconoscenti. È un tributo a Stefano Payne. Questo Stefano Payne. Qui c'è Polaroid, istantanee di storia della musica. This is a sound of seas. This is a sound of seas. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music. Nel 1977 i Clash escono con un singolo intitolato White Riot. Sommossa bianca. È un inno alla sollevazione popolare, alla lotta di classe. Una critica alla cattiva coscienza bianca conservatrice che ha sepolto nel sangue le rivolte nei quartieri giamaicani di Londra. Un manifesto rock contro segregazione, sfruttamento, apartheid. 11 anni dopo spetterà a Todd Terry il compito di sollevare una nuova sommossa, questa volta solo musicale, elettronica, house, nera. Il progetto Black Riot di A Day in the Life. Esiste solo Pump Up the Volume. In pista, in auto, in radio. Il singolo dei Mars pompa il volume a palla dappertutto, continuamente. Perché è la cosa più nuova che si sente da un bel po' di tempo. Un concetto che fa istantaneamente scuola e diventa cult prima di uscire dalle classifiche. Una scintilla che accende cloni, imitazioni, plagi, spesso ad opera dei più raffinati falsificatori in circolazione, gli italiani. the record when the drum beats go like this. Così, mentre i Mars si godono il Valhalla in vita, Bauhaus si mangia le briciole di ciò che resta e nello stesso tempo alimenta un movimento e spinge il genio nazionale verso la creazione di un nuovo genere, la Italo Dance. Polaroid, Polaroid. Istantanee di storia della musica, si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Questo è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Solo su Radio 105. Oggi stiamo ripercorrendo le origini della Acid House. Al centro. In basso a destra una specie di Jane di Tarzan con grosse tette leopardate guarda verso l'alto. Accanto a lei una bocca verniciata di rossetto sorride maliziosa in un riquadro bianco. Forse è Marilyn. Più sopra una mano stilizzata indica il titolo del vinile. The Latin Age. Esta loca. Esta loca. Esta loca. Esta loca. La stagione della house acida si spegnerà prima degli sgoccioli del millennio. Altri giganti prenderanno il suo posto. Golem imponenti chiamati progressive, commerciale, techno. Chi l'ha vissuta ricorda il peso della valigetta, la puntina che cerca il solco. Check this out. Il brivido di due ritmi diversi che improvvisamente suonano a tempo. Un'emozione analogica, manuale, palpabile, come uno scatto di Polaroid. Too strong. Check this out. È una produzione Zodi 105, ideato da Wender e Fabio Alisei. Voce Lucilla. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altre repliche e altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot.